Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Volevo dire su Vanessa, sicuramente è bellissima e cerca di annullare i grandi stereotipi che condannano l'immagine di tante persone. Che problema c'è? Perché deve chiudere il Senato? Li chiudiamo dentro il Senato e li lasciamo lì un mese da soli dentro lì e fanno tutto quello che devono fare. Spezia, arriva l'influenza, tragedia. Noto un filo di sarcasmo nell'ultimo ascoltatore, un filo di sarcasmo. Ma no, ma nessuno dice che è una tragedia. Il problema è la sovrapposizione tra le due cose, no? E il rischio che questa sovrapposizione crei dei problemi oggettivi, organizzativi, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. Il punto è esattamente questo, non è altro, cioè non è l'influenza il problema in sé, Posso che i soggetti a rischio dovrebbero vaccinarsi. E ammesso che trovino il vaccino. Anzi, se avete storie su questo, raccontatemele. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, perché oggi se ne occupano un po' di quotidiani. Questo tema dell'influenza. E poi sì, Vanessa incontrata. Grande dibattito su questa copertina di Vanity Fair, nella quale compare nuda, con scritto "Nessuno mi può giudicare". Ci siamo, è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Giovedì 1 ottobre, sono le 7:22 minuti e oggi le aperture ai giornali sono varie, di vario ordine. Il Sole 24 Ore, ne parleremo poi con il nostro direttore e direttore del Sole Fabio Tamburini, apre sul vaccino perché parte la produzione in Italia, ad Anagni, la Sanofi insieme a GSK sta sviluppando, partirà la produzione appunto di 400 di una serie di dosi quando saranno pronte, ovviamente, e poi nelle prossime settimane partirà la produzione di quello dell'AstraZeneca per 400 milioni di fiale. E l'apertura è questa. Il Corriere della Sera apre sui due positivi in Senato, fermati i lavori, e Casellati che dice oggi torniamo alla normalità, ma si vedrà naturalmente. E poi il titolo forte però è sui conti segreti del Vaticano. La Stampa ci racconta che slitta il recovery fund e l'Italia è nel mirino. La Repubblica si dedica allo scontro tra Stati Uniti e Vaticano sulla libertà di fede in Cina. E a questo si dedica anche Avvenire. Non si usa più con la U maiuscola. Il governo frena il pressing del segretario di Stato Pompeo su 5G, sicurezza e Cina. Il Vaticano: non si strumentalizzi il Papa. La Nazione, il quotidiano nazionale, due senatori positivi, trema il palazzo. Il Fatto Quotidiano: ecco i sussidi stand della Confindustria, oltre 50 miliardi. Bonomi accusa Conte e il governo per i troppi sussidi, ma dimentica quelli alle imprese. Scrive il Fatto Quotidiano. Erano Stati Uniti, è il titolo del manifesto, sul dibattito del quale ampiamente abbiamo parlato ieri. Il Messaggero: reddito, picco reddito di cittadinanza, picco a 10 miliardi e salta la stretta sui furbetti. Il Giornale ci parla proprio del disastro influenza, in 3 milioni senza vaccino. La Verità ci fa sapere che metà dei magistrati rischia il processo perché piovono incolpazioni per chi ha raccomandato colleghi di corrente. E anche Libero si dedica alla banda del buco Vaticano, così la chiama, la Guardia di Finanza entra in chiesa. Iniziamo come sempre da qualcosa di un po' diverso da quelli che sono gli elementi centrali, che poi, come sentite, sono molto vari, quelli che troviamo sui quotidiani di oggi. E fatemi iniziare da una storia che merita la massima delicatezza e soprattutto la massima attenzione a non tirare fuori casi mediatici dove non ce ne sono. Ci arriviamo subito. La vicenda è quella di un bambino di 11 anni che si è tolto la vita. E che le tracce di questa vicenda le trovate su tutte le prime pagine dei quotidiani e le trovate tutte collegate ad un presunto gioco online, un gioco sui social, un gioco che istigherebbe al suicidio. Ve la ricordate la vicenda di Blue Whale? Tanto se ne parlò nel 2017, per poi scoprire, ebbene lo sappiamo, che era sostanzialmente una bufala, che persino il video che le Iene avevano messo in onda lo ammise lo stesso Matteo Viviani, l'autore del video, in un'intervista a un selvaggio a Lucarelli sul Fatto. Era stato costruito con delle immagini messe là un po' a caso, non correttamente. E a tutt'oggi, a 3 anni di distanza dall'esplosione di quella vicenda, non c'è un caso accertato di Blue Whale, tranne un processo per istigazione al suicidio, che peraltro non si è ancora concluso in tutta Italia. Quindi sostanzialmente una bufala, la vicenda di Blue Whale. E oggi scoccia dirlo, ma molti giornali ci ricascano, mettono la storia di questo Jonathan Galindo. Che cos'è Jonathan Galindo? È questa figura, una specie di pippo artefatto con aria da orrore, che in realtà è un mascherone creato da un esperto di effetti speciali che poi si è diffuso in rete. E appunto si ragiona su questa istigazione al suicidio, tanto da far intervenire il ministro per gli affari regionali e per le autonomie, Francesco Boccia, che dice che lo Stato tutto nella sua interezza non può restare a guardare, servono sanzioni e pene esemplari per tutti coloro che istigano i bambini a giochi di qualsiasi tipo, a maggior ragione a giochi della morte. Ma la realtà è che ci sia un'istigazione, non solo, è tutto da provare, e come ben sappiamo le motivazioni di un suicidio sono sempre decisamente insondabili. Dunque ben venga il pezzo di Virginia Della Sala sul Fatto Quotidiano che dice questo: di chi è la colpa? Ora si può discutere sull'opportunità di lasciare libero accesso ai social ai bambini, così come sul tema la società lo impone, ma ciò che si decide di fare con l'emblema di un immaginario radicato non dipende dalla leggenda in sé né dal mezzo su cui viaggia, bensì dalle persone e dai loro scopi. I media l'hanno rilanciato come fenomeno terrificante, se ne è parlato come se fosse una piaga sociale e gli è stato dato un risalto drammatico che potrebbe aver generato eco ed emulazione, che è esattamente, attenzione, quello che è successo con la vicenda Blue Whale. Ragazzini avrebbero potuto decidere di usare la copertura di Jonathan per spaventare i compagni, manipolarli, bullizzarli, adulti per avvicinarli, così come esperti di marketing per impostarvi campagne pubblicitarie. Il fenomeno e la sua diffusione non sono per ora colpevoli, quelli devono ancora essere trovati, ammesso che ci siano. E sulla stessa linea di delicatezza è l'intervista che rilascia al quotidiano nazionale Nunzia Ciardi, che è direttrice della Polizia Postale dal 2017, e dice molto semplicemente questo: i ragazzini sul web, sorvegliateli sempre, cioè fate attenzione a quello che fanno in rete, a quello che frequentano in rete, specie francamente per quando hanno quest'età, quando si tratta per esempio di bambini di 11 anni. Se volete anche su questo, dibattito aperto naturalmente, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli SMS. Vi devo una cosa. Ieri abbiamo parlato dell'assoluzione di Nicola Cosentino ed era giusto farlo, facendo notare che si apre molto e ci si occupa molto dei processi quando iniziano, delle accuse, degli arresti, e molto poco delle assoluzioni. Dall'altra parte vi devo anche quest'altra pagina del Fatto Quotidiano, e siamo a pagina 12 con Vincenzo Iorillo, il quale ci racconta, ieri l'avevamo accennato ma qua si scende nel dettaglio, che in realtà le vicende giudiziarie di Cosentino, nonostante l'assoluzione di ieri in secondo grado, che è la seconda assoluzione che arriva, non sono finite. Lo ricordate, l'ex sottosegretario all'economia, uomo forte di Forza Italia in Campania, ci fa sapere Iorillo che il 28 ottobre riprenderà il processo di secondo grado della madre di tutte le inchieste che lo riguardano. È l'appello alla condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a 9 anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica. Una sentenza del 2016, arrivata al termine di 141 udienze iniziate nel 2011, durante le quali sono stati ascoltati circa 110 testimoni, di cui 16 collaboratori di giustizia. E anche a queste accuse, appunto, Cosentino si deve difendere, e su queste accuse aspetta la sentenza di secondo grado. Una pausa. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento. Buongiorno Spezia, te la racconto io, se vuoi la mia diversione, per carità. È che il vaccino anti-influenzale viene spinto tanto perché viene venduto sempre meno, perché sempre più c'è passaparola che non funziona. In sempre più casi la gente si ammala ugualmente, che è tutta la solita faccenda. Daniela Bologna, 42 anni, vado dal medico per il vaccino, mi dice chiaramente non sei in una categoria a rischio, ma io vorrei farlo, quindi vallo a ordinare in farmacia, poi io ti farò l'iniezione. Arrivo in farmacia esattamente 12 giorni fa e mi dicono: guarda, non so nemmeno se riceveremo delle dosi, le ha requisite tutte l'USL, io prendo il tuo nominativo ma non credo arriverà, quindi il vaccino come lo faccio? Eh già, il tema è esattamente questo. Guardi, se la può confortare, io sono un soggetto a rischio perché ho avuto un infarto e il mio medico mi ha detto la deve comunque prenotare in farmacia la sua dose di vaccino, e in farmacia ovviamente non è arrivata. E quindi, baci cari, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Sul fronte vagamente, non ho capito caro ascoltatore, se è un fronte vagamente complottista quello che mi sta tirando fuori, l'idea della cospirazione per cui ci vogliono far comprare il vaccino, non lo so, non l'ho capito esattamente, però in realtà funziona, non funziona ovviamente su tutti i virus, ha comunque un impatto, serve a prevenire in molti casi questa confusione tra Covid e influenza e toglierti naturalmente l'influenza. Poi se c'è dietro il solito ragionamento per cui le compagnie farmaceutiche ci guadagnano un sacco di soldi, quel ragionamento viene facilmente smentito dal discorso che tutti sapete perfettamente, ossia il fatto che, ormai spero che lo sappiate tutti perfettamente, le compagnie farmaceutiche ci guadagnano molto di più a curare le conseguenze di una malattia, a farvi comprare i medicinali per curare le conseguenze di una malattia, che a farvi vaccinare. È molto semplice e lineare la cosa, e ormai spero abbastanza nota, ed è uno degli argomenti che portiamo sempre alle persone Novax che ci scrivono, però è un messaggio che a volte fatica a passare. E qua vi prendo dal giornale, pagina 3, la lunga odissea per avere un vaccino, dosi introvabili, liste d'attesa infinita e l'allarme dei medici, arriveremo tardi. A firmare il pezzo è Maria Sorbi. Il giornale ci apre addirittura Il Quotidiano, a lanciare l'allarme Roberto Rossi, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici di Milano, che oltre a denunciare il ritardo con il quale ci si è mossi nell'ordinare i vaccini, mette a fuoco un problema comune a parecchie regioni. La Lombardia ha garantito l'acquisto di 2,4 milioni di vaccini, l'80% in più dello scorso anno, ma l'Ordine di Milano teme siano in realtà dosi non sufficienti a coprire la platea di chi ne avrebbe diritto gratuitamente. a dimostrazione, vivo a Milano, quindi a dimostrazione di quello che vi dicevo prima. A maggior ragione potrebbero non bastare per tutti gli altri, ovvero i soggetti a cui il Ministero della Salute ha consigliato la somministrazione, perché ci sono anche quelli a cui è stato consigliato. Ci si è decisi troppo tardi a ordinare le dosi che servivano e così, nonostante un aumento della produzione del 43% rispetto al 2019, il vaccino antinfluenzale ci sarà per 17,6 milioni di persone a rischio su 20,8 milioni, ma non per la popolazione generale, per la quale in farmacia sarà disponibile a pagamento solo l'1,5% del totale prenotato. Così Maria Sorbi sul Giornale. Cosa ancora da segnalarvi? Direi che sul tema Covid ve lo accennavo già prima nello spazio delle 6:30 con Agnese Pini. Io spero che il Ministero dell'Istruzione, speriamo il Ministero dell'Istruzione si decida a mettere mano a questa circolare, questa indicazione che non è molto chiara e che produce effetti come quello che vediamo a Lucca, e siamo a pagina 15 del Quotidiano Nazionale. L'Istituto Liceo Scientifico Maiorana in provincia di Lucca, alunno positivo, classe in quarantena, professori compresi, ma dato che questi professori hanno anche delle altre classi da gestire, sono in isolamento, non possono fare video lezioni, perché dall'isolamento non si possono fare video lezioni, anche se non sono positivi e se non hanno contratto il Covid, nel qual caso ovviamente sarebbero in malattia, mentre invece sono in isolamento e non possono fare smart working, non possono fare video lezioni. Siamo a pagina 15 del Quotidiano Nazionale. Naturalmente questo è un discreto problema e speriamo che il Ministero intervenga, perché molti professori hanno più classi ovviamente. Ancora sui giornali trovate ovviamente molti elementi e molte vicende su questo Senato nel quale, sempre in tema di Covid, due senatori del Movimento 5 Stelle sono scoperti positivi. Adesso hanno fatto il tampone tutti quelli del gruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Il Senato, appunto, è stato chiuso momentaneamente, i lavori sono stati sospesi. Dalle colonne del Corriere della Sera apprendiamo, come vi dicevo, che la Presidente del Senato Casellati dice: il Senato è aperto, non ho nessuna intenzione di chiudere, oggi tutto torna alla normalità. Dal territorio giova segnalare anche questa pagina della Stampa, perché è una pagina della Stampa accompagnata da un editoriale del direttore Massimo Giannini in prima, che ha a che fare con il presidente del Piemonte Alberto Cirio. Cosa è successo? Che è stato ritratto come Aldo Moro. La sua foto è stata ritagliata, messa in bianco e nero e piazzata con dietro il simbolo delle Brigate Rosse, la bandiera delle Brigate Rosse. Qualcuno forse pensa di fermare il Piemonte e i piemontesi con le intimidazioni, ma ci ha insegnato Aldo Moro che la vera libertà si vive faticosamente tra continue insidie e la nostra terra va avanti. Raccontano Irene Famà e Massimiliano Peggio, iniziano così il pezzo con i virgolettati, le parole del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che commenta i volantini trovati ieri incollati sulle pareti esterne del centro sociale torinese a Scatasuna, luogo simbolo dell'antagonismo. Fotomontaggi 5 in tutto che sostituiscono appunto il volto del presidente Cirio a quello dell'onorevole Moro nella fotografia diffusa dalle Brigate Rosse dopo il rapimento. Sotto c'è la frase: i cosplayer che vogliamo, dove riferimento al cosplay, la pratica dei fan di indossare i costumi dei personaggi dei fumetti giapponesi, come dire che Cirio dovrebbe indossare i panni di Moro. A questo è dedicato un breve editoriale di prima pagina di Massimo Giannini, del direttore della Stampa. Alberto Cirio come Aldo Moro, il volto del presidente della regione Piemonte al posto di quello del presidente della DC. Chiunque lo abbia ideato, realizzato e diffuso ha compiuto un atto disgustoso e intollerabile, tanto più in questa città, che agli anni di piombo, da Carlo Guiglieno a Carlo Casalegno, ha pagato un altissimo tributo di sangue. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al presidente Cirio e respingiamo questo clima di odio, di intolleranza, di violenza e ricordiamo che ai disperati nostalgici della P38 che la notte della Repubblica non tornerà e non tornerà mai più. Infine, cos'altro? Direi che il pezzo da leggere di oggi su tutte le vicende vaticane e su tutti gli intrecci che hanno a che fare con le finanze, il cardinale Becciu e via dicendo, è sicuramente il pezzo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Perché? Perché oltre ad alcuni elementi che già avevamo trovato sul quotidiano La Repubblica ieri, ci fa scoprire che il Vaticano e chi gestisce le finanze vaticane era già informato che le persone con le quali si stava mettendo in affari non erano persone delle quali fidarsi un granché. Il riferimento in particolare al finanziere Raffaele Mincione. Racconta Fiorenza Sarzanini dell'interrogatorio avvenuto in Vaticano a Vincenzo Mauriello, uno dei dipendenti vaticani inquisiti. Dice che gli chiedono a questo Vincenzo Mauriello, a questo dipendente vaticano, di informarsi un po' su Raffaele Mincione. Curò personalmente l'acquisizione delle informazioni Mauriello e metteva in evidenza le ragioni che avrebbero sconsigliato l'avvio di attività di investimento con il predetto Mincione. In particolare, egli non era persona moralmente adatta ad avere rapporti con la segreteria di Stato. Un avviso, quello di Mauriello, che evidentemente è stato ignorato e Mincione, appunto, è entrato nella partita delle finanze vaticane. Il traffico, ci ritroviamo tra un attimo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Le 7:47 minuti e 20 secondi è il giorno, il giovedì, dell'appuntamento con il nostro direttore, il direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, ci siamo, eccoci. Buongiorno qua. A tutti, eccoci sempre qua. Più o meno nascosti dietro le mascherine. Sì, ovviamente, io qua non posso perché sennò al microfono mi sentirebbero tutto attutito. Per questo ho detto più o meno. Senti Fabio, l'apertura del Sole 24 Ore oggi è dedicata, appunto, prima abbiamo parlato di vaccini antinfluenzali, molto di vaccini antinfluenzali sui quali, come ben sappiamo, c'è un problema, però invece il vaccino anti-Covid, il tema è il fatto che un pezzo di produzione importante si concentrerà in Italia, il che è un bel segnale ed è una testimonianza ancora una volta della nostra farmaceutica, come citato anche nei giorni scorsi, l'altro giorno, dal presidente di Confindustria Bonomi in assemblea. È uno dei grandi punti di forza di questo paese, no? Ho deciso di aprire il giornale proprio con questo titolo perché l'industria farmaceutica italiana è una eccellenza. Si è fatta valere a livello internazionale, è arrivata perfino a superare la Germania, sta crescendo a ritmi significativi. Noi italiani abbiamo spesso l'autoflagellazione e dobbiamo imparare invece che quando ci sono delle cose che sappiamo fare bene, abbiamo, lasciami dire, anche il dovere di dircelo con assoluta chiarezza. Racconta Marzio Bartoloni nel pezzo che ad Anagni, 70 chilometri da Roma, la multinazionale Sanofi ha deciso che avvierà proprio da qui la sua produzione del vaccino insieme a GSK con 300 milioni di dosi destinate all'Europa, mentre quello di AstraZeneca, anche quello dovrebbe essere prodotto in Italia, con 400 mila dosi, se non vado errato, e quindi la dimensione è notevole e di fatto diventeranno i centri produttivi europei di questo vaccino. A proposito di... Hai fatto bene a sottolineare, sì, il Lazio, perché proprio nella farmaceutica, se vogliamo, c'è una sorpresa, e cioè il Lazio, è l'industria del Lazio è ai primi posti, è un'eccellenza nell'eccellenza, e siccome siamo sempre abituati a parlare di Milano, della Lombardia, del Veneto, del Nord-Est, al massimo il Nord-Ovest, bene, in Lazio sappiamo, dobbiamo sapere tutti che c'è una eccellenza nell'eccellenza. Sì, una piccola correzione, ho detto 400.000, intendevo ovviamente 400 milioni di dosi, me lo fa notare un ascoltatore, loro sono attentissimi, Fabio, giustamente, sono giustamente attentissimi. Ti porterei, a proposito di Europa, sulle questioni che riguardano il Recovery Fund, perché le tensioni che si iniziano a sentire con i paesi, che si continuano a sentire con i paesi dell'Est, fanno dire alla Germania che sul Recovery Fund potrebbe esserci qualche ritardo, addirittura nell'ordine dei 6 mesi. Speriamo di no, è pane per i denti della Merkel, che però sappiamo tutti che ci sa fare, è la cronaca di un evento annunciato, i paesi come l'Ungheria, la Polonia sono stati ostili fin dal primo momento e quindi hanno perso, hanno dovuto ingoiare il rospo, ma adesso la tattica sarà quella del rimando, del buttare in là la palla. E di conseguenza è la cronaca di un evento annunciato, io credo però che alla fine il tutto andrà in porto, speriamo in tempi brevi, perché di questo c'è bisogno, in caso contrario questi fondi rischiano di arrivare a babbo morto. Fabio, ti porterei sulla questione della Banca Centrale Europea. Ci dedichiamo un pezzo, l'editoriale di Donato Masciandaro è per quella che non solo da noi ma anche su altri quotidiani viene segnalata come una vera e propria svolta da parte della BCE, la BCE che è pronta a cambiare linea sul tema del target di inflazione con Christine Lagarde, la presidente, che dice adesso gli obiettivi sono altri, a dire signori anche la BCE sta cambiando, sta diventando una banca centrale più aperte virgolette normale chiuse virgolette, no? Anche perché deve inseguire la Federal Reserve, la grande novità, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, è che la partita tra Federal Reserve americana, la banca centrale americana e la BCE è aperta durante l'era Draghi. Per 8 lunghi anni c'è stato un accordo di massima, mai proclamato, ma ben praticato, un accordo che significava anche una stabilità sui cambi, sul cambio euro-dollaro. Adesso non c'è più Draghi, è cambiato anche il vertice della Federal Reserve, deve fare i conti con Trump, che come si sa non le manda a dire. E quindi il meccanismo si è un po' inceppato, siamo in un momento di passaggio, vediamo se andrà a finire che si ritroverà un equilibrio tra Federal Reserve e Banca Centrale Europea, oppure se le oscillazioni sul cambio euro-dollaro diventeranno più violente. Non è indifferente questo per l'industria italiana, per l'industria europea, per gli equilibri a livello internazionale. Visto che hai parlato degli Stati Uniti, Fabio, parliamo di chi dagli Stati Uniti è venuto qua, ossia il segretario di Stato americano Pompeo, che ieri ha avuto colloqui da questa e dall'altra parte del Tevere, cioè con il governo italiano e con il Vaticano. Un colloquio all'insegna della distensione con l'Italia e con Di Maio, che dice sul 5G siamo con voi, non siamo con la Cina, invece più teso dall'altra parte con il Vaticano. Con Pompeo che ha chiesto di non rinnovare l'accordo con Pechino per la nomina dei vescovi, e il Vaticano gli ha risposto picche in sostanza. Insomma, questo Trump e i suoi uomini sono sempre più invasivi, vediamo come andranno a finire le elezioni americane, certo in momenti di pandemia, di emergenza sanitaria ci sarebbe bisogno di forse di più equilibrio, di più comprensione e non di continue provocazioni, di toni sempre aspri, sempre duri, credo che non portino da nessuna parte. Papa Francesco è noto per non essere malleabile e anche per non essere diplomatico, altri lo sono, in fondo Di Maio è il capo della diplomazia italiana, essendo ministro degli esteri e ministro della Farnesina, e di conseguenza toni di grande flessibilità sono perfino naturali. Papa Francesco è fatto di un'altra pasta, come si suol dire, non le manda a dire, e anche nel caso di Pompeo non l'ha fatto. È stato così. Grazie a Fabio Tamburini, ciao Fabio, buona giornata al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Corre, GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli, poi avremo il presidente della regione Sicilia Musumeci, ci parleremo di Covid e non solo di quello, e poi uno dei due senatori 5 Stelle che è risultato positivo. Una pausa. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.